si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento dell'altra cronaca, l'altra attualità su Radio 24. Insomma, ormai siamo alla fine dell'anno, possiamo fare anche un bilancio di questi primi 12 mesi di Si può fare, anche un po' una scommessa di Radio 24. Speriamo di averla vinta, speriamo di andare avanti. Anzi, a partire dai primi di gennaio faremo un concorsone e vi riproporremo un po' le storie che avete sentito per potete votarle, si vinceranno anche dei premi. Allora, visto che appunto siamo alla fine dell'anno e facciamo anche un po' di bilanci, come notizie d'apertura vi voglio riproporre alcune delle notizie che abbiamo detto quest'anno, così facciamo una rispolverata, una rinfrescata, e tra l'altro aspettiamo anche le vostre segnalazioni su Facebook, su Twitter, da tutte le parti. Queste alcune delle notizie. A Crotone il comune dà buoni spesa in cambio di scontrini e fatture, iniziativa anti-evasione. A Settimo Torinese da settembre mezzi pubblici gratis in centro, mobilità sostenibile, cittadinanza onoraria ai giovani stranieri nati in Italia, inclusi e felici. Artisti di strada senza autorizzazioni a Vicenza. La felicità forse ci farà uscire dalla crisi. Il sito che inchioda i politici alle loro promesse, finalmente arrivato in Italia, si chiama bachecapolitica.it. La verità ci farà uscire dalla crisi. In Liguria studenti si tassano per finanziare lo spettacolo dal titolo Che ci fa la mafia in Liguria. Il teatro e la verità ci salveranno dalla crisi. Detenuti di Rebibbia, carcerati romani, dunque ripuliscono i fori imperiali, lavori di pubblica utilità. Contro la mancanza di credito per le imprese, arriva in Italia il microcredito, il caso di Miz in Abruzzo. Arriva anche la banca senza interessi, presentata l'associazione IAC Italia, e sicuramente ne sentiremo ancora parlare. Erano alcune delle notizie di quest'anno, così per dare il senso di quello che abbiamo fatto in questi primi 12 mesi. Si può fare trattino Radio 24 la nostra pagina Facebook, andate, commentate quello che volete, Si può fare 24 su Twitter, ma adesso andiamo ad iniziare. Si annaspa, in cui ogni peccato è programmato più del Pascal. Io te la perquisisco a mo' di caspa, ci trovo vizi e pasta, sei nell'angolo più di Dizzy Rascal. Non è Letizia, la tua tizia non è casta, lo deduco dalla tu nella tua sacca. Hai l'alito di grappa, ma dati alla pappa come Gian Burrasca. Brucerai all'inferno come d'inverno una frasca. In tasca metti la mano per etido afgano, ma cosa sei? Sei metallaro, ma sentiti Albano. Mostri le zanne, ma mio caro, hai denti da un taro, con tutti i mezzi ti si fa pezzi più del meccano. Sei portatore insano di tasche, ti conviene confessare che con le mani in tasca vuoi protestare. Un anno nella cella è il posto dove stare, perché adesso noi comandiamo dall'est all'ovest, amen. Fratello, tu non mettere le mani. Partiamo oggi da un regalo di Natale che però vale solo per le persone che abitano in quella città lì, in quella piccola città lì, di cui parleremo tra un attimo. Un regalo di Natale che ha a che fare con la politica. Quante volte avete sentito dire non metteremo le mani in tasca, eccetera, eccetera. Parliamo dell'IMU, perché ad Andora, siamo in provincia di Savona, sono riusciti nel piccolo miracolo di abbassarla, ridurla al minimo, proprio nel rush finale, quando si doveva pagare la seconda rata. E sentiamo un po' perché, com'è andata con il sindaco Franco Floris. Sindaco, buongiorno e auguri anche intanto. Buongiorno e auguri a tutti voi. E allora, che cosa siete riusciti esattamente a fare con l'IMU? Ma noi abbiamo fatto prima, come tutti quanti, un'azione preventiva, come dire, con grande attenzione abbiamo fatto delle valutazioni. Poi invece sulla seconda rata ci siamo resi conto che potevamo, come dire, attivare delle aliquote inferiori. Vi siete messi, come si suol dire, una mano sul cuore. Ma più che una mano sul cuore, abbiamo fatto tutta una serie di razionalizzazioni, di risparmi sulla spesa, proprio per evitare di di tartassare i cittadini. Cioè, vi siete detti, si può fare, giusto per usare le parole del titolo del programma, si può fare, cioè, e se si può fare facciamolo, perché insomma... Esatto. Quando noi abbiamo approvato il bilancio preventivo ci siamo resi conto che tra quello che si deve dare allo Stato e quello che doveva rimanere ai comuni, per i cittadini era un salasso enorme. A questo punto abbiamo detto abbiamo tempo per capire come comportarci e siamo arrivati alla fine approvando delle tariffe a favore delle nostre imprese, degli alberghi, della gente che affitta i residenti, della prima casa. Insomma, abbiamo fatto un enorme lavoro distinguendo attività da attività. Insomma, ma non ha dovuto tagliare qualche servizio, spero? Più che tagliare i servizi, guardi, questa nostra, come dire, situazione di finanza arriva da lontano. Lei tenga conto che ad Andorra non c'è addizionale IRPEF, noi non abbiamo mai... Cioè voi ci state lavorando da tempo all'attenzione, alla cura per lei. Noi riteniamo che insomma la questione è una scelta, noi abbiamo fatto la scelta di una... Avete dovuto tagliare qualche servizio o no? Abbiamo dovuto non tagliare dei servizi in particolare, li abbiamo dovuti razionalizzare. Faccio un esempio banale, abbiamo appaltato l'illuminazione pubblica a una ditta che ci fa tiene in sicurezza gli impianti, li mette a norma, cambia l'illuminazione, la mette a basso. Vabbè, questa è una forma di razionalizzazione e anche di risparmio. E abbiamo risparmiato 360.000 euro. Vedi. Però ecco, visto che lei ragiona così nel suo comune, cerca di risparmiare, di razionalizzare e appena può abbassa l'IMU per i cittadini, a lei che effetto fa questo dibattito che probabilmente riempirà di nuovo la sesta campagna elettorale dove vedremo in campo Berlusconi, ma insomma, a parte questo, che lui c'è proprio la fissazione dell'IMU, la questione che è proprio la più discussa in campagna elettorale, lei che l'ha fatto, no? C'è un po' di demagogia anche su questo, oppure? Ma guardi, io ritengo che sia assolutamente una discussione veramente proprio elettorale, perché guardi, il discorso dell'IMU, io la penso così, poi naturalmente qui è libero opinione. Certo, ognuno fa quello che vuole, figuriamoci. Io ritengo che se l'IMU ritornasse tutta ai comuni, nel vero senso della parola, e ogni comune potesse con un proprio regolamento applicare secondo le proprie esigenze, le esigenze dei propri cittadini, io sono assolutamente convinto che il cittadino alla fine risparmierebbe. S'abbasserebbe perché... Io ne sono assolutamente convinto. Questa storia che i sindaci aumentano la pressione fiscale, insomma, ne sono pieni i giornali, però poi dai dati ci rendiamo conto che il comune ha subito negli ultimi 3 anni tagli su tagli su tagli, e senza dimenticare che il 50% dell'IMU va allo Stato. E dunque, voglio dire, in qualche modo i comuni hanno dovuto applicare delle aliquote per consentire di sopravvivere. Insomma, quindi lei, secondo lei, la strada per uscire da questo dibattito è quello di applicare autonomia, un po' di federalismo fiscale, insomma un po' di autonomia, e questa questione dell'IMU lei la risolverebbe così. Tra l'altro nel suo comune l'ha già affrontata in un modo che credo i suoi concittadini non la ringrazieranno mai abbastanza. Che dire, fermiamoci qua, auguri, grazie per averci spiegato così anche brevemente, ma va bene così, quello che siete riusciti a fare, un piccolo comune, un messaggio, speriamo che sia un auspicio anche per chissà, per altri comuni, per altre realtà anche l'anno prossimo. Grazie. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Va Vabbè, Natale, insomma, alla fine dell'anno si mettono queste canzoni, no? C'è sempre un ritorno un po' al passato, ma il motivo per cui abbiamo scelto questa canzone non è questo, è la notizia che abbiamo letto sulla Nazione: tra crisi e difficoltà, anche al Babbo Natale della Caserana quest'anno girano le palle, sì, le palle di Natale, dell'albero, un albero a forma di babbo, insomma, andiamo a parlare con l'autore di questa scultura che ha fatto discutere a Pistoia, Varesco Amoti. Buongiorno, Varesco. Buongiorno. Che cosa ha combinato lei? Hanno fatto le foto, sono usciti i titoli sui giornali. A Natale dovremmo essere tutti più buoni, lei invece no. Cosa fa? È nato così, tanto per scaramanzia, come si può dire, quest'idea. È un'idea che è nata già l'anno scorso. Io ho fatto questa mega struttura alta, sì, tutta la casa davanti al negozio, e c'era due palle verdi ferme e avevano suscitato un monte di curiosità. E allora lei ha detto: quest'anno le facciamo girare. Detto, mettiamolo un tema, perché qui ogni cliente che viene, e sentendo un po' da tutte le parti, tutte le campane, dice che quest'anno girano tanto. Ma quest'anno ho rimesso queste due palle colorate di rosso, con un meccanismo le girano. Si vede questa struttura luminosa con queste due palle che girano. Ma perché lei ha fatto un po' tutto questo? Diceva per scaramanzia, perché insomma è stato un anno difficile. Tutti si lamentano, non c'è soldi, le famiglie non vanno più avanti, e gli gira molto, molto, molto, molto a questa gente che viene qui, almeno che sento io. Poi sentendo fuori si sente tutto un brusio che... Che brusio? Che lascia un po' a desiderare, tutti, che non si va più avanti, che non ci si fa più. Ma è vero, secondo lei? Lei che negozio c'ha? Cosa vende? Io il negozio c'ho edicola, e poi c'ho, io, il mio negozio è da 100 anni che esiste qui. Sì, ma non c'è lei da 100 anni. È un paese dove si vendeva tutto, dalla merceria a un po' di tutto. E poi piano piano magari si è trasformata, adesso continua a vendere un po' di tutto o solo giornali? Ora vendo sempre bassa merceria, sì. Poi io mi sono specializzato in fuochi d'artificio, è 40 anni ormai che lavoro fuochi d'artificio. Quindi adesso è un bel momento per lei. Perché... Si spera, per ora no. Ma è vero, insomma, che c'è questa crisi, anche lei nel suo negozio lo vede? Sì. No, i giornali, vi dico subito che abbiamo un quarto di giornali si vende. Non me ne parli, guardi, perché noi ci salviamo che stiamo in una radio, però insomma sempre di notizie parliamo, e quindi abbiamo tutti un po' pauretta. Sì, perché qui i giornali sono diminuiti un quarto di quello si vendeva prima, nonostante che mandino fiche, mandino roba, ora addirittura mandano di tutto, ne dico. Cioè nei giornali, sì, ci sa, ci sono i collaterali, ci sono i libri, sì, le riviste, c'è di tutto. Senta, Varesco, ma lei questa scultura, questa è stata definita una scultura alta 9 metri, tra l'altro, sì, luminosa, con queste palle che girano proprio lì, l'ha fatta tutta da solo? Sì, sì, ho fatto... Io mi sono appoggiato alla figlia, perché la figlia è stilista, no? Allora, la figlia ha dato la forma, insomma, ha dato l'idea. No, ho dato le misure come dovevo farlo, e lei me l'ha sviluppato su un foglio. Sì. E io l'ho sviluppato tutto in grandezza naturale. Come il disegno me l'ha fatto lei, perché lei poi per svilupparlo ho sviluppato tutto io, con tutta roba riciclata. Per esempio? Legno riciclato, perché legno che buttavano via alle falegnamerie. Bravo. Insomma, non ha sprecato nulla, non ha voluto sprecare nulla, è tutto. Non si butta via nulla. Non sono nuovo a queste cose, anche con le vetrine, ma in movimento. Varesco, ma le vecchie sculture, per esempio, che fa? Le potrebbe ammucchiare da una parte e fare un museo lì? Senta, io per dire la verità me l'hanno chieste in tanti, anche le vetrine, però non ho mai voluto dare via nulla, preferisco disfarle, perché sono un po' geloso della mia roba, perché non la sanno nemmeno ad operare. Senta, ma l'anno prossimo cosa farà? L'anno scorso le palle ferme, le palle che girano, l'anno prossimo le palle le tira contro il cielo, cosa fa? Sì, bisogna vedere un pochino come va il movimento, perché è una cosa un po'... Mi è meglio prenderla a ridere, perché qui... Bravo. Se no si comincia a piangere la mattina e si finisce la sera. Vabbè, auguri, insomma, che dire, un po' di spirito ci vuole, non solo a Natale, ma in generale. Io spero che si vada avanti, spero, perché purtroppo... Lei sicuramente sta andando avanti, l'ha dimostrato, ogni anno c'ha un'idea diversa. Sì, Va bene, grazie. Fermiamoci qua. La salutiamo. Faccia gli auguri anche alla famiglia, alla moglie. So che è lì in negozio. Grazie. Buon grazie. Pomeriggio. Varesco Amoti, autore di questa scultura di 9 metri, il Babbo Natale illuminato con le palle che quest'anno inevitabilmente giravano. Che ci volete fare? Un mondo soltanto adesso io ti guardo. Nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. Questa era l'iniziativa originale dalla provincia di Pistoia al Babbo Natale con le palle, inutile dirlo, insomma, che giravano, sì. E se anche a voi girano un po', c'è un modo per porre rimedio andando a Roma, per esempio, perché c'è chi è pronto ad offrire aiuto a chi durante queste vacanze insomma, se la passerà non necessariamente bene, capita, no? Perché insomma ci sono molti che durante le feste si buttano giù perché... Che scatole, le vacanze, i parenti, le cene, i cenoni, non se ne può più. Ecco che arriva Giovanni Porta, psicoterapeuta, che si offre di fare delle terapie gratis di un'ora per chi ne avesse bisogno. Giovanni? Sì, buongiorno. Eccoci qua. Quindi? Quindi io sto facendo in questo periodo questa offerta per chi diciamo sente la necessità di metterci un pochino in discussione, di fare un pochino di psicoterapia, in questo caso un'ora, perché il Natale è un momento delicato, lo sappiamo tutti, è delicato per chi è un po' allergico ai cenoni, all'incontro con i parenti e quindi alla necessaria adeguatezza sociale, non possiamo mica essere tristi a Natale. Bisogna essere tutti allegri, pronti, in forma, smagliante, quindi sì. Chiaramente ogni tanto qualche defiance c'è. Ma lei cosa si propone di fare, insomma? Io mi propongo di offrire un'occasione, mi immagino soprattutto le persone che si sentono in difficoltà e non possono parlare con nessuno all'interno del loro contesto familiare, magari proprio per questo, in questo periodo festivo, perché non sta bene parlare di, che ne so, di ansia, di depressione, di malesseri, e anche per chi si trova in condizioni di oggettiva difficoltà. Perché poi, diciamolo, a parte gli scherzi, ci sono poi persone che sono sole, perché la famiglia può stare stretta, a Natale purtroppo uno se la ritrova tutta attaccata addosso, però almeno quando c'è, è comunque un po' di calore, un sostegno, c'è chi magari è veramente in difficoltà, e allora... perché non valutare di fare un'ora di aprirsi a una persona. Lei tra l'altro è avvezzo a questo tipo di attività e si mette in gioco, fa l'attore, lavora anche sul palco con persone che hanno il disagio, no? Ci racconti un po' sì, che sì, cosa? Sì. Lavoro, organizzo dei laboratori in cui mescolo la psicoterapia, il teatro e la scrittura creativa, diciamo, tento una maniera arte terapeutica di affrontare dei problemi psicologici esistenziali, cioè spingo le persone a trovare un modo innovativo ad affrontare la loro vita. E ci riesce qualche volta? Alle volte sì. Può bastare anche un'ora di psicoterapia? Ora la dico così proprio scema, no, insomma, un'ora non basterà mai, però... No, un'ora di psicoterapia è un pochino, è come un fiammifero. Dipende se aspettiamo che si spenga oppure se il fuoco si appiccia per accendere qualcosa. Sì, un pochino, se lo utilizziamo per accendere qualcos'altro può essere uno stimolo. Senta, ma non faccio miracoli. Cioè, no, beh, certo, questo neanche a Natale. Però è difficile, insomma, che uno alzi il telefono. A parte come si fa a prenotarsi? Cioè, noi stiamo facendo un po' di pubblicità, adesso diremo come si fa a venirla a trovare. Ma altrimenti uno alza il telefono e dice: sono Pinco Pallino, mi sento un po' giù, vengo a trovarla? Così funziona? Sì. Funziona praticamente così. Questa iniziativa è sufficiente che mi invino una chiamata, che mi telefonino, e con una telefonata è sufficiente per concordare un appuntamento. Ma lei poi si fa trovare, non è che trovano un numero staccato, che sennò facciamo una figuraccia. Di solito qualcuno ci ascolta a Radio 24, magari non tantissimi, però qualcuno. E quindi come si fa se vogliamo... Allora, chi desidera accedere mi può telefonare, do il numero? Non so, se crede, oppure se c'è un sito. Il sito è giovanniporta.it, lì ci sono tutti i contatti, che magari è più facile da ricordare. Sì, giovanniporta.it, altrimenti diamo i numeri che non sta mai bene. Andiamo a dare i numeri. È la prima volta che si offre per fare queste prestazioni gratuite? è la prima volta che mi offro il periodo natalizio, forse perché quest'anno... Anche lei ha bisogno, forse si sente un po' giù, di parlare con qualcuno. No, spesso, grazie al cielo. Infatti noi psicoterapeuti siamo i primi che dobbiamo monitorare continuamente la nostra condizione emozionale, perché è molto difficile andare da un paziente quando si sta molto male, quindi è un lavoro nel quale siamo costretti a stare bene. Poterlo svolgere. Anche lei ci confermerà che è tutto in aumento in questo periodo, con la crisi economica, la disoccupazione, cioè queste forme anche di depressione, di cose stanno aumentando, oppure non c'entra nulla, ci sono sempre state? In 30 secondi poi, perché dobbiamo chiudere. No, c'entra, è un discorso di prospettive. Le persone sono costrette, dal mio punto di vista, a diventare più sagge e a cercare dei valori nella vita che non siano solo la realizzazione economica e sociale. Quindi siamo tutti costretti a affrontare un momento duro. Eccoci qua di nuovo insieme, si può fare puntata natalizia. Quest'oggi siamo partiti dal regalo di Natale che il comune di Andorra in Liguria ha fatto ai suoi concittadini, un comune piccolo che però è riuscito ad abbassare al limite, quasi ad azzerare l'IMU per i suoi concittadini. Insomma, una buona notizia, nell'auspicio che l'anno prossimo di buone notizie così ne arrivino sempre di più. Italiani, popolo di burloni, siamo stati in provincia di Pistoia, avete sentito Varesco con la sua scultura del Babbo Natale con le puntine, i puntini che girano, e poi se proprio invece non ce la fate a tirarvi su con una battuta di spirito a Roma e dintorni, potete sempre approfittare dell'offerta di Giovanni Porta, che si offre un'ora di psicoterapia gratuita a casa se proprio queste feste non riuscite a mandarle giù. Adesso, tra poco, col nostro prossimo ospite, che è la vera prima bella buona notizia di questa puntata di oggi. Questa canzone di Beyoncé, le donne comandano il mondo, vorrebbero comandare il mondo, dipende dai punti di vista. C'è chi è riuscito a farle comandare un pochino di più, almeno nella propria azienda. Parliamo di Stefania Brancaccio, imprenditrice titolare della Coelmo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'abbiamo convocata assolutissimamente perché ha recentemente ottenuto, ce lo dica lei esattamente che cosa, anche perché è un po' una novità, credo, in Italia, una cosa che riguarda il riconoscimento dei diritti di pari opportunità delle donne nelle aziende. Sì, la nostra azienda è stata la prima in Italia ad ottenere una certificazione rilasciata da un ente certificazione organizzato, diciamo autorizzato, che è il CERMET. Che cosa ha avuto, che cos'è questa certificazione? Premesso, la nostra azienda, essendo un'azienda metalmeccanica, ha tutte le dovute certificazioni per poter operare, ma questo è qualcosa di più, è una certificazione di genere che va un po' al di là, cioè noi siamo abituati a sentire parlare sempre delle pari opportunità, sì. Che è giusto, perché noi donne abbiamo dovuto davvero combattere, però è diventato oggi probabilmente un termine un po' ad uso, un po' lo dicono tutti quanti, un po' sulla bocca di tutti quanti. Non si sa più bene alla fine nemmeno che cosa vuol dire. Poi l'altra cosa che si usa molto è quote rosa, cioè di aprire le porte alle donne a prescindere, a volte anche senza domandarselo, però ci devono essere, certo, che è giusto che ci siano. Però si è dovuto infrangere, naturalmente, questo c'è stato. Ecco, sì. Io sono una vecchia femminista, cioè una persona che ha dovuto, sono una persona anziana, ho ottenuto il mio cavalierato nel lavoro perché sono una persona molto anziana e quindi inizialmente ho dovuto effettivamente rompere questo muro di omertà che c'era, quindi tutto ben venga ed è vastissimo il percorso delle pari opportunità. Però, dice lei... ma oggi qual è la differenza? Oggi c'è una certificazione di genere, cioè noi ci siamo resi conto che volendo a tutti i costi sottolineare le pari opportunità e spingere la donna ad omologare l'uomo per poter ottenere posizioni di pari eguaglianza con l'uomo, sì, le abbiamo fatto dimenticare quanto è importante il suo distinguo di donna. Cioè, alla fine, alla forza di voler raggiungere l'uomo, è diventata uguale all'uomo, lei dice, invece no. Bravo, ci siamo omologati, tanto da dimenticare quanto invece in un'azienda, in un lavoro, in qualunque momento, lo specifico, la differenza. Proprio il fatto di essere donna può e deve e porta delle cose positive che derivano proprio da questo. Cosa allora consiste, però, mi scusi, poi continuiamo anche questo discorso, però la certificazione, la prima ottenuta in Italia, quali criteri, cosa si tiene a mente? Insomma, non è che, perché quando si sente parlare di certificazione, a me viene sempre in mente quella di qualità, UNI, ISO, eccetera. Ci vuole, no, ed è fatta sui documenti. Sì, no, non solo, ma anche a procedure che a volte si perdono un po' nella notte dei tempi, non si capisce a che cosa servono. Ci illumini invece, sì. Sono solo carte, unicamente carte. Qua invece stiamo parlando proprio di una impostazione aziendale. Adesso io mi consenta di fare dei semplici esempi. Quando è venuto l'ente a certificarci, ha dovuto prima di tutto esaminare non le carte, ma la gestione, la logica delle aziende. Ai vertici noi abbiamo delle donne, ai vertici, cioè in posti che notoriamente vengono occupati dagli uomini, non so, la produzione, tempi e metodi, alla movimentazione delle merci, ho messo delle donne, abbiamo delle donne. Quante dipendenti lei ha? Complessione. Noi abbiamo 50 i diretti, sì, e poi siamo intorno a un indotto di 70-80 persone. Fino ecco. E quindi, insomma, primo punto, lei ha delle donne ai vertici della sua azienda, e questo in posizioni dove notoriamente ci stanno gli uomini, si trovano normalmente dei poi uomini. Allora il problema è stato questo: quando una donna, perché naturalmente stando a quei vertici deve produrre in azienda, la nostra azienda ha per scopo prima di tutto la produzione, produrre bene e stare sul mercato. Tra l'altro, già che ci siamo, ci dica anche cosa producete, così tanto per figurarsi. Noi siamo manufatturieri metalmeccanici, noi costruiamo gruppi elettrogeni. Vabbè. Dalla progettazione all'installazione in tutto il mondo. Quindi una cosa che detta così sembra anche poco a che fare con l'universo femminile, invece molto no. Molto poco a che fare. Ecco qui, allora noi qui abbiamo un po' stravolto, perché quando una donna, ci siamo accorti che una donna, stando al vertice, quando una donna gestisce una posizione chiave dell'azienda, deve poter mettere fuori tutta quella sua parte che le appartiene come logica. E qual è questa parte? Ci dica, non so, la parte più organizzativa, una mentalità più capace di tenere tante cose insieme, si dice. Differente. Non vogliamo dare accezioni, però qualcosa dovremmo dire, perché se no questa certificazione... No, il problema qual è? Che cosa vuole dire? Perché quando poi noi abbiamo ottenuto che appunto nei vertici, ai vertici abbiamo trovato questa donna, noi dobbiamo però rendere questa donna, dobbiamo darle la possibilità di svolgere il suo lavoro come si deve. Ecco, allora, questo mi interessa. Una donna che deve fare delle riunioni, brava, non può tornare a casa per esempio mettere un consiglio di amministrazione, mettere un consiglio alle 8 di sera. Alle 8 di sera, perché ha una famiglia. Allora, che cosa abbiamo notato? Che tutte le donne che erano al vertice cominciano a mascolinizzarsi, non possono più fare i figli. Ma ci dica cosa avete fatto voi, perché sennò alla fine ci dice solo cosa non si dovrebbe fare. Abbiamo consigliato tempi di vita di lavoro, premesso un orario di lavoro che la donna deve poter dare, noi le abbiamo dato la possibilità di utilizzare le sue 8 ore di lavoro nella maniera, nella gestione come le fa più comodo. Oh, ecco, questo è già importante. Allora, prima cosa, a parte le questioni delle donne al vertice, cioè l'orario, mi scusi, l'orario, le 8 ore di lavoro, le donne della vostra azienda le possono gestire, magari non sempre, ma insomma... con i tempi loro. Tra l'altro siete in compagnia anche di altre grandi, importanti aziende, anche straniere, internazionali, che sono anche in Italia, che però sono un po' la punta dell'iceberg, speriamo che cresca quest'iceberg, dove si comincia a ragionare proprio in termini di una flessibilità ma non di quelle che fanno paura ai lavoratori, ma di quelle che invece dovrebbero ingolosirli, perché si dà la possibilità di gestirsi un po' il tempo. Questo che fate? I propri tempi. Noi dobbiamo pensare che quando vengono al lavoro le nostre risorse umane, sono uomini, donne, sono individui che hanno un cuore, un cervello. Ma come fate voi con la... Non so, lì da voi forse non c'è proprio una vera e propria catena di montaggio, una vera e propria... questi manufatti... Noi non abbiamo turnisti. Non avete turnisti e quindi riuscite a gestire questa cosa. Riusciamo perché... a gestire questo... Però, per esempio, i nostri, gli operai, quindi proprio che sono intorno alla macchina, hanno deciso da soli che non fanno una pausa pranzo molto più breve, perché loro sono uomini, anche loro, a loro abbiamo dato la possibilità, cioè sottolineando il fatto che anche un uomo voglia andare presso la sua famiglia, quindi trattare quest'uomo che si è accorciato un tempo di lavoro e preferisce uscire mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima, invece di rimanere per esempio a mezza. Sono tempi che se li gestiscono loro. Quindi a lei tutta questa questione di quest'anno, del dibattito alla Fiat, con la questione delle sentenze, i giudici, il quarto d'ora di lavoro più o meno, il braccio di ferro, Marchionne e Pomigliano, visto da lei tutto questo è un po' assurdo, un po' vecchio, un po' surreale? Il problema è assurdo poter usare dei tipi di contratto che sono rigidi, e questo mi dispiace, io lo vorrei suggerire un poco anche ai nostri sindacati. Il contratto, una rigida contrattazione, è una cosa quasi impossibile oramai. Chiedono a noi aziende di essere, di globalizzarsi, di andare incontro a tutto il mondo, di essere elastiche nelle loro programmazioni, anche quindi i nostri contratti di lavoro, fatto salvo il codice di civile che deve comunque salvare e salvaguardare il lavoratore, fatto salvo un contratto nazionale che debba dettare delle regole ben rigide di tutela dei lavoratori e del rispetto del loro lavoro, ci sono però delle cose che dovrebbero essere molto più aziendaliste. Ho capito, ma detto questo, signora Brancaccio, la domanda che le avevo fatto è questa: lei come sembrano dal vostro punto di vista queste polemiche che hanno occupato prime pagine dei giornali sul quarto d'ora di pausa? Perché mi sembra di capire che da voi non è che una pausa la può fare 2 ore, però la può gestire un pochino insieme a voi, quindi forse siete in una condizione diversa, e quindi le chiedevo una valutazione su questa questione invece della... Io ho detto, per me il sindacato dovrebbe lasciare stare questo quarto d'ora, questa mezz'ora, ad una trattativa, quella che poi loro chiamano di secondo livello, che è questa vista che viene vista dai sindacati come qualcosa di impossibile. Questa nuova visione, io invito i sindacati a vedere in una maniera differente. Sì, ma forse bisognerebbe invitare anche Marchionne, però, perché mi sembra che sulla questione del quarto d'ora di durata della pausa abbia impostato anche uno scontro con i sindacati, che poi insomma ha avuto tutte delle pieghe complesse. Allora lasciamo perdere la magistratura, certo, ma il sindacato poi fa, ci sono due tipi di sindacati, quello che fa... Vabbè, però adesso non apriamo il dibattito sui sindacati, perché è Natale, non ce lo possiamo permettere, no, a parte gli scherzi. Ci interessava mettere a fuoco invece la questione delle donne. L'abbiamo trattata, abbiamo spiegato come alla Coelmo avete ottenuto questa certificazione importante di genere, la prima in Italia, è una buona notizia. Grazie Stefania Brancaccio, che dire, auguri e buon lavoro, ancora tante belle novità, insomma. E speriamo così, speriamo di essere davvero come esempio, le ripeto, e speriamo, perché io dico, e mi lascio dire questa frase, che soltanto quando noi riusciremo davvero a sottolineare la differenza e a riportare il vero uomo e una vera donna, perché così... Bello questo, il vero uomo e una vera donna, allora solo allora... E allora sì che ci sarà una parità, più sottolineeremo la differenza e più riusciremo ad arrivare ad una parità. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily, I came in here for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. Supermarket. the shop I believe. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. È nato solo pochi mesi fa e questo supermercato, che è già stato replicato in altre parti d'Italia, e promette di essere il supermercato più ecosostenibile d'Italia. E siccome insomma noi da questi microfoni di ecosostenibilità ne abbiamo parlato e insomma, pensiamo che sia una buona notizia, è un volano dell'economia, la green economy sicuramente importante, e poi insomma se una cosa positiva questa crisi ce la sta portando è anche quella della consapevolezza che insomma, bisogna andarci cauti con le risorse del pianeta. Allora vogliamo capirci qualcosa di più, abbiamo convocato Carlo Delmenico, direttore responsabilità sociale d'impresa di Simply Italia. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Simply Italia, che è appunto responsabile di questa iniziativa. Di cosa parliamo? Del supermercato, il primo di questo tipo, nato dove? A Botticino. Sì, quello di Botticino è stato il primo di una serie di esercizi, di realizzazioni in cui sostanzialmente abbiamo cercato di realizzare un punto di vendita che consumasse meno energia, che utilizzasse... Anche per risparmiare un po', va, mettiamocelo, perché... No, tra l'altro questo è tra le cose positive per voi, per le vostre tasche, ma anche per la bolletta energetica in generale del paese, possiamo dirlo, no? Insomma, perché... Sì, certo, questo poi è l'esercizio che in qualche maniera ci è venuto anche più facile, perché naturalmente in un momento in cui poi i costi dell'energia sono, non dico fuori controllo, però sicuramente in grande crescita, il fatto di consumare di meno è percepito in maniera positiva, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di impatto. È uno dei casi in cui la sostenibilità è evidentemente al ritorno anche dell'azienda che affronta dei costi per essere sostenibile. Insomma, è evidente, se si spende meno per l'energia, è chiaro che alla lunga si fa un investimento, ma ci si guadagna. Ma io l'ho interrotta, prego. Mai come in questo caso il claim del si può fare esce in maniera molto semplice. Consideriamo che per esempio molti punti di vendita, molti supermercati erano stati concepiti fino a poco tempo fa senza la possibilità di poter sfruttare la luce solare, perché comunque si cercava di creare una situazione asettica in cui la presentazione dei prodotti fosse standardizzata dalle ore del mattino fino alla sera, per cui in alcuni casi è bastato anche semplicemente aprire le finestre. E far entrare la luce e risparmiare quelle ore di illuminazione, per esempio? Sì, quello è magari fossero sempre state attività così semplici. Sì. Naturalmente poi si è andata molto più invece in profondità, lavorando su strutture sempre più sofisticate, fino ad arrivare per esempio a concepire che l'impianto di raffreddamento di un punto di vendita può a sua volta diventare una fonte di calore, per cui con il calore sviluppato dalla centrale termica arrivare a riscaldare l'acqua dei servizi del punto di vendita o anche tutto il sistema di aerazione. Sono naturalmente degli approfondimenti successivi che noi abbiamo applicato in serie sui nostri punti di vendita, per cui sostanzialmente cominciamo ad applicare delle soluzioni, ne misuravamo l'impatto e laddove il ritorno sia dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista dell'impatto economico sì, era positivo, noi poi andavamo in applicazione su tutta la rete. Tra l'altro ci sono anche delle altre curiosità che insomma io ho letto qua e là, i carrelli di plastica realizzati con tappi di bottiglia riciclata, possibile? Sì, possibile, certo, certo, ma poi anche quello è un ottimo esempio di come la partnership con il mondo della produzione ci ha portato prima a realizzare i carrelli esattamente con i tappi delle bottiglie, per poi scoprire che magari i tappi delle bottiglie in alcuni casi sono una plastica molto rigida, per cui hanno un tasso di rottura elevato, per cui provare invece a realizzare dei carrelli con la plastica delle batterie delle auto, piuttosto che invece poi trovare anche altre soluzioni, fino ad arrivare ad oggi a una soluzione che sicuramente è più evoluta, ma ci consente comunque di riutilizzare il 99% di plastica riciclata, per cui Senta, ma insomma poi ce ne sono altre, da qualche parte ho letto che avete riutilizzato anche insomma adesso non ricordo più, ma ce n'è davvero per tutti i gusti, cioè vi siete anche ingegnati, avete messo a come dire, avete utilizzato tutto il meglio di quello che le tecnologie sostenibili hanno in circolazione. innovazione. Come si matura un'idea in una impresa, in un'azienda grande anche come la vostra, di fare questo passo, cioè di fare questo investimento che, come dicevamo, sicuramente ha un ritorno, perché quanto, avete calcolato quanto si risparmia in percentuale, per esempio, nei costi, diciamo, nell'alimentazione energetica quotidiana o mensile di un supermercato? Beh, dipende sempre molto dal tipo di struttura, sì, che si prende in considerazione. Naturalmente, potendo partire da prato, diciamo, per cui non lavorando su una struttura già preesistente o soprattutto, sì, non lavorando magari su punti di vendita di centro città, come noi abbiamo nella maggior parte dei casi, perché abbiamo punti di vendita di vicinato, si può arrivare ad avere anche risparmi nell'ordine del 30-40%. Addirittura. Mediamente noi comunque riusciamo ad arrivare attorno al 20%, proprio perché sono strutture in qualche maniera già preesistenti, per cui purtroppo si possono fare degli interventi, ma non è che si può rovesciare da capo a zero. E la domanda che le stavo facendo è questa, cioè come un'impresa, un'azienda arriva a decidere di fare questi investimenti, perché il risparmio è evidente, però il risparmio da solo probabilmente non compensa, se non in un periodo di tempo un po' lungo, quello che è l'investimento necessario da fare. Insomma, molti pensano, ma mi conviene di più economicamente sta qua fermo con le mani in mano e senza fare questo tipo di interventi. No, perché invece voi avete fatto questo? È fuori discussione che ci vuole sicuramente un bel substrato culturale per cominciare a fare innovazione, fare ricerca da questo punto di vista. La logica che ci ha spinto a fare operazioni di questo genere è l'assoluta convinzione che essere attori di un mercato futuro vuol dire essere comunque presenti e farsi carico degli impatti che comunque le nostre attività producono, sia dal punto di vista ambientale così come dal punto di vista sociale. Questo vuol dire che la costituzione di un'unità di responsabilità sociale d'impresa ha come obiettivo proprio quello di immaginare quelli che saranno gli impatti che comunque la nostra attività avrà in futuro e cercare di capire come su questi impatti si può lavorare in termini di riduzione laddove gli impatti sono negativi o di sviluppo laddove gli impatti sono positivi. Per impatti positivi, per esempio, citiamo la devoluzione dei prodotti alimentari vicino alla scadenza. Insomma, voi volete in qualche modo che chi entra nei vostri supermercati, come avviene in alcune botteghe del consumo, bar, negozi, che si entra sapendo che tutto è stato scelto con una certa logica, un consumo consapevole, forse rivolto per il momento a un'elite non tanto economica quanto anche culturale, come diceva lei, della popolazione, però che si sta allargando. Quindi voi vi siete portati le mani avanti e sicuramente per il futuro siete pronti. Auguri, grazie per essere stato con noi, Carlo Del Medico. Se mi lascia solamente 20 secondi per dire che in questo momento, per esempio, noi stiamo concludendo la raccolta per la campagna di Telethon. Noi facciamo parte della macchina di Telethon oramai da 11 anni. Questo fa sì che per esempio i 9.500 nostri collaboratori siano attivi sul territorio e con i nostri clienti ogni anno raccolgono più di 1.300.000 euro. Questa è l'attività, tra virgolette, un po' più torata invece nel mondo del sociale. È uno degli esempi. Benissimo, e abbiamo detto anche questo. Grazie, io le stavo facendo gli auguri. Oggi è una puntata naturalmente natalizia. Ci fermiamo qua. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana, che ha scritto con me il programma, Pietro Lacorte. Per quanto mi riguarda, Alessio Maurizi, ci risentiamo direi sabato prossimo. Buon Natale, buone feste, buon tutto, a presto.